Siamo con Claudio Borgianni, presidente della Fondazione Entroterre, e parliamo del Entroterre Festival 2022, una manifestazione in cui ci sono tanti eventi, tanti luoghi, tanti artisti. E vorrei partire dai filoni tematici del festival di quest'anno. Ho visto che è come suddiviso in sezioni, classico antico, 700 di Dante, Terre di Jazz e altri. Com'è stato il criterio, diciamo? Il festival si muove su tematiche che partono innanzitutto dalla base, che è la musica antica. Quindi questa idea di classico antico che si muove tra classica antica, ma con uno sguardo anche al crossover e all'innovazione di generi. Accanto a questo c'è tutta la parte folk del mondo, che fa parte un po', che nasce dalla collaborazione con la Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli, e da lì c'è tutto un filone che avrà comunque Angelo Branduardi come punta di uno dei concerti a Forlimpopoli. Avremo anche la parte Terre di Jazz, che unisce un po' la zona dell'Emilia con la zona della Romagna, con varie date, tra cui avremo artisti come Alex Britti, Sergio Cammariere, oppure Frankie High Energy a metà agosto. Altra sezione, ci vediamo all'alba, che sono un ciclo di concerti che si muovono su tutta la regione all'alba, seguendo l'ora esatta del sorgere del sole. E accanto a questo poi dopo c'è tutta una sezione che è quella più grande, che è una sezione off, che spazia un po' tra varie tematiche, vari generi, e cerca di animare un po' l'attività sui territori. In ambito di musica antica ci sono degli appuntamenti con la Risonanza. Sì, la Risonanza, che è uno dei gruppi che hanno fatto la storia un po' nel mondo della musica antica italiana, un gruppo milanese che è ormai storico, ogni anno fa una residenza. Quest'anno sarà ancora con noi a Bertinoro e sta portando circa 5-6 concerti e tutta un'attività di formazione. Poi nell'ambito della musica cosiddetta leggera, prima hai citato alcuni nomi molto importanti, tra cui Branduardi, Cammariere, Frankie High Energy, però c'è anche un appuntamento col grande Mogol. Sì, esatto, con Mogol faremo a Pieve di Cento una serata per una raccolta fondi per la Casa dei Risvegli di Bologna. E lì Mogol racconterà un pezzo della storia della musica italiana che lui ha fatto. Solo un pezzo, perché se la raccontasse tutta... Esatto, sarebbe veramente... Tra l'altro Mogol è anche un intrattenitore, perché racconta tanti aneddoti su come sono nate le canzoni, i testi, quindi c'è un po' di dietro le quinte sempre con Mogol. Senti, l'inaugurazione quale sarà? L'inaugurazione sarà il 21 giugno in Piazza Maggiore. Diciamo, abbiamo scelto la centralità della regione per guardare poi la provincia, guardare fuori su tutto lo sviluppo del festival, e sarà con un progetto in collaborazione con la Cineteca di Bologna dedicato a Pasolini. Molto interessante. Fra l'altro sto guardando adesso il calendario e sto vedendo che c'è un appuntamento l'1 luglio con Renato Marengo, Luca Damiani e Neri a metà. Che cos'è? Esatto. Questi sono un nostro format che si chiama Entro Cover, in cui lavoriamo su, che sarà Canossa, lavoriamo su praticamente il gruppo che fanno le cover del gruppo famoso, e quindi lì su questa data andranno un pochino sul repertorio di Neri per caso, su tutto quel repertorio anni 90. Ho capito. Poi c'è anche il grande Danilo Rea, che sarà sempre a Canossa. Sì, esatto, lì farà tutto un racconto musicale su Mina e sugli anni della loro collaborazione. Ecco, per chi volesse documentarsi, diamo un riferimento. Certo, lì possono vedere tutto sul sito, che è www.entroterre.org. Benissimo, ti ringraziamo molto della chiacchierata. Grazie a te, grazie. Ciao. A voi.